Allora, come sentite, io sono al telefono con qualcuno, in questo caso è una delle, appunto, delle partecipanti all'iniziativa del 23 organizzata dal Nodo Solidale, La Pirata, insomma, di cui insomma poi io dopo continuerò a parlarvi. Stiamo parlando di Francesca Gargallo, che appunto verrà presentando il suo libro, che è, penso, anche forse un po' una sintesi rispetto a quello che leggo di te, del tuo grande lavoro, della tua grande esperienza. Allora, intanto benvenuta. Grazie Marta. Femminismo desde Abia Ayala, idee proposte delle donne indigene dei 607 popoli della nostra America. Allora, anche solo partendo da qua, direi che non è proprio un numero. Non è poco. Esatto. Allora, come sei arrivata? Anche molto, molto a delle confusioni. Io non ho vissuto ovviamente con donne di 607 popoli, però so che esistono 607 culture, 607 lingue e perciò anche 607 sistemi di relazione di genere che non sono necessariamente quelli occidentali in America. Solo in America, ecco. Sì, solo in America sono 607. Sottolineiamo anche questo, visto che appunto sì, stiamo parlando di femminismi e relazioni di genere. Parlaci un po' di quello che cos'è Abia Ayala. Beh, Abia Ayala in realtà è un termine Kuna, del popolo Kuna, che è un popolo che vive proprio nel Tapón del Darién, cioè tra Panama e la Colombia, e che è un po' la cintura d'America. E il popolo Kuna, che tra le altre cose è un popolo matrilineale, matrifocale, che vive della pesca e che ha uno sviluppo di un'arte decorativa del corpo e di un'arte anche di cucitura che viene da una tradizione orale di racconti su vari strati del mondo. Vabbè, il popolo Kuna è uno dei popoli che ha una parola, un termine con cui definire tanto il nord come il sud del continente. Abia Ayala è realmente tutto il continente che tutti i popoli ovviamente avevano menzionato nella loro cultura, però avevano sempre un po' di dubbi se erano terminologie che avevano piuttosto a che vedere con il proprio territorio che non con il continente intero. I Kuna, all'essere nella cintura, diciamo, del continente, potevano vedere al nord e al sud e lo definivano interamente. Abia Ayala è stato più o meno una ventina di anni fa il nominativo del continente americano scelto per gli incontri dei popoli indigeni, che ovviamente non si riconoscono nel nome coloniale, di origine proprio coloniale, che non ha niente a che vedere con la loro storia, con le loro culture, con il loro modo di mettersi in relazione con la territorialità americana, è il nome scelto dai popoli indigeni per chiamare le Americhe. Certo, le Americhe, infatti. Sì. È notevole questa descrizione, insomma, anche rispetto a quella che abbiamo noi come idea di relazione anche dei linguaggi altri, no? Che chissà perché recepiamo sempre come casomai meno specifici, meno descriventi, invece spesso è proprio il contrario, sì, rispetto a quella che è la relazione di quella cultura poi col suo ambiente, con la conoscenza, insomma. Certo, noi abbiamo una serie di terminologie che utilizziamo perché non le abbiamo mai messe in dubbio. Per esempio, c'è una strana e costante identificazione dell'America con gli Stati Uniti, e c'è una costante idea che l'America è stata scoperta quando era abitata da più di 50 milioni di persone. Certo. E lì si parlavano 2000 lingue. E c'è un'idea che la storia americana sia cominciata con la invasione territoriale europea, quando in America c'erano 6.000 anni di agricoltura al momento dell'arrivo degli europei. Guarda, questo discorso tra l'altro fila molto, perché insomma di solito in questo spazio, quando avremo finito di parlare di questa iniziativa, parleremo della popolazione del pueblo Nación Mapuche, e come Bellissimo. Sai poi ci sono Nación Mapuche veramente non solo maltrattato da stati che hanno cercato di inventarsi una nazione inesistente come quella cilena, come quella argentina, ma che oggi poi soffrono anche i soprusi di capitalisti come la famiglia Benetton. Guarda, che sì, infatti, gli ha rubato 300.000 ettari e che li butta fuori dal loro territorio ancestrale. Comunque, diciamo che tu non conosci 607 popolazioni direttamente, ma insomma ne conosci l'esistenza, ma immagino sicuramente qualcos'altro. Però comunque hai avuto un enorme, hai fatto un bellissimo viaggio in cui so che hai fatto delle bellissime esperienze appunto con popolazioni che hanno proprio la caratteristica di essere di donne e quindi comunità, sono comunità ancestrali queste comunità che tu, raccontaci un po' se sono proprio comunità matrilineari appunto. Non tutte, ovviamente, certo, in America c'erano varie forme di patriarcato ancestrale, alcune terribili, altre erano invece delle relazioni sociali di genere e comunitarie abbastanza ugualitarie tra donne e uomini, con, anche se con dei lavori differenziati, però con una stessa valorazione. E, come ti potrei dire, io da quando sono arrivata in America Latina, oramai quasi 40 anni fa, ho sempre sentito e visto e anche toccato con mano che la prima relazione evidente di discriminazione in America Latina è una relazione razzista nei confronti delle popolazioni indigene, che diventa molto più difficile quando si tratta delle donne di queste popolazioni, che sono sfruttate, il cui corpo è trattato come mercanzia di poco valore e le cui idee e le cui resistenze non sono proprio valorate, non sono prese in considerazione. Ed eppure le donne dei popoli indigeni non solo hanno prodotto le forme della resistenza a tutte le forme poi di sfruttamento sui territori e sulle popolazioni americane, ma anche di quelle che possono succedere all'interno di una comunità. Da lì che io sempre mi sono interessata sulle forme di organizzarsi delle donne e delle popolazioni indigene, per esempio in Messico, dove ci sono 69 popoli, 69 nazioni originarie. E, quando scrissi nel 2004 Idee femministe latinoamericane, mi resi conto che stavo ricadendo nell'errore di sempre, che era quello di credere che l'America Latina ha una popolazione omogenea, cosa che non è vera, e che questa popolazione omogenea allora non ha problemi come quelli del razzismo che complicano la situazione classista e la rendono poi quasi insuperabile nella relazione tra le città e le campagne. E così, quando nel 2010 ho avuto un anno sabbatico, ho deciso di andare all'incontro via terra, cioè senza mai volare, sempre viaggiando via terra, di andare all'incontro di varie amiche che avevo letto, con cui mi scrivevo, che avevo conosciuto durante certi altri viaggi o comunque attraverso di amiche indigene che mi rimettevano ad altre, e siamo partite, abbiamo fatto un anno e mezzo di viaggio passando a cercare le donne delle comunità che avevano delle idee precise su quello che è come liberarsi da lo sfruttamento del territorio, del proprio corpo e della comunità, per cui come ricostruire le comunità in un senso femminista di liberazione delle donne dall'oppressione degli uomini, anche se questa oppressione è differente a quella occidentale. Sì, è differente, anche se quando poi viene rappresentata, diciamo, appunto, certo, tu perché ti occupi, però appunto rimane anche lì, non lo so, io pure un po', per quanto poco conosco l'America Latina, poi funziona sempre appunto che nelle metropoli è molto segnato da quella presenza delle metropoli meramente capitaliste, quindi è fatto in un modo, poi certo nelle piccole comunità rurali passa attraverso altri canali, no? Però spesso questo immagino appunto, questo è anche una grande forza che sta unendo adesso, così immaginavo te che incontri le tue amiche indigene, questi grandi incontri di donne in Sud America, che poi sono quelle che appunto nel Messico piuttosto che l'Argentina stanno facendo arrivare delle spinte molto forti, proprio perché hanno questa capacità, credo, orizzontale di creare una relazione che vede appunto non solo il genere ma anche il razzismo e la violenza che la violenza attraversa, insomma, certo. E stanno facendo arrivare qua delle spinte tra l'altro fortissime, insomma. Beh, io non posso scordare che anche se urbane nella sua maggior parte, però i movimenti del 2016 e 2017 contro la violenza delle donne sono partiti dall'America Latina e sono arrivati in Europa. Con un risveglio di qualche cosa che c'è, ovviamente, che c'è stato ed è ancora vivo malgrado sia sotto la cenere, che è proprio la spinta femminista verso la liberazione. E io da questa prospettiva direi che c'è un motivo terribile per il quale in America Latina due anni fa c'è stato questo risveglio massivo, collettivo, con marce di un milione di persone in varie città, eccetera, eccetera, che è purtroppo l'aumento di diverse forme di violenza contro le donne in contesti poi che sono contesti capitalistici, tipicamente delle zone ancora da conquistare in qualche modo territorialmente, per cui nei contesti estrattivi, nei contesti di grandi progetti idroelettrici, nei contesti, diciamo, di violenza contro la biodiversità, di deforestazione, lì le donne sono molto più maltrattate, soffrono delle situazioni di femminicidio, di crudeltà sempre maggiore, e gli stesso per l'emergenza di questa situazione, le reti di donne indigene, le reti di donne indigene e urbane, indigene e afrodescendenti, contadine e lavoratrici dei servizi urbani, si sono fortificate e hanno portato avanti una fortissima critica ai processi di spoliazione, qualsiasi siano l'espoliazione della vita delle donne attraverso il femminicidio e l'espoliazione del sequestro dell'acqua, dell'estrazione del petrolio e del gas attraverso di metodi veramente ecocidi come quelli del fracking, delle agroindustrie e niente, delle miniere, soprattutto delle miniere. Insomma, questo sarà notevole, insomma, perché appunto ricordo tra l'altro gli ascoltatori e le ascoltatrici che questo è solo, insomma, un preambolo di quello di cui andremo a parlare il 23, ve lo ricordo, l'iniziativa che sarà a Fisica, allora adesso andrò a ricercare il nome del Laura perché non mi sovviene, all'inizio l'avevamo annunciata a Tres Hernández, invece correggiamo il tiro, devo dire che appunto poi le spinte più forti da questo punto di vista alle donne qui che abbiamo ricevuto sono esattamente quelle che sono arrivate appunto dal Kurdistan e dal Sud America, quindi insomma credo che sarà molto interessante approfondirlo. Tra l'altro sarà una giornata importante, anche perché prima di questa iniziativa ci saranno appunto le donne, manifesteremo in piazza contro gli attacchi che vengono fatti a Roma agli spazi delle donne, quindi sono tutte cose che si sosseguono una con l'altra. E credo che sarà un incontro particolare, no? Nel senso che mentre quello curdo, diciamo, è un percorso molto, molto diverso, però dato da delle necessità molto simili, no? Quindi questa è una cosa, che ritornano. Non ci sono due percorsi uguali, però si può arrivare a mettere insieme delle esperienze che non sono uniche bensì differenti e che servono a un recupero della speranza nel mondo proprio. Io credo che questo è il lavoro delle donne curde e delle donne indigene della Biayala. Sì, insomma, sarà veramente bello sentire questa iniziativa, sarà secondo me molto arricchente e metterà, appunto, connetterà molte cose, questo ne sono certa. Io non so, ti vorrei chiedere altro rispetto al tuo libro, ma dall'altra parte, cioè, potrei stare con te a parlare ore, perché poi parli di cose a cui non tengo molto, al di là della differenza di genere, delle relazioni di genere, ma anche proprio rispetto al Sud America, appunto, mi vengono in mente tante cose rispetto a quelle che hai detto, della violenza che è stata, penso a quelle che sono state le manifestazioni ultimamente per la storia di Fujimori, no? Quindi i segni che ha lasciato, per esempio, Fujimori in Perù, piuttosto che, no? E tutte cose che oggi sembrano un po' pacificate, ma che hanno lasciato ancora una grandissima ricchezza. Sì, anche dei dolori molto profondi di cui poi si fa anche a coppio di forze. Sì. Esatto, sì, che però appunto vedo che ci sono giovani che poi ereditano memoria, elaborano, insomma, sì. Questo è molto bello, insomma, hai sì. Una dimensione che a noi manca, una relazione così con delle culture così ancestrali, così antiche, con delle relazioni così diverse, insomma, credo che questo anche ci possa arricchire molto. Sì, sicuramente. C'è una forza che viene, diciamo, da culture marginalizzate che invece sono ancestrali e hanno qualcosa da dire al mondo, perché appartengono al mondo. Sì, sì, infatti, su questo concordo molto con te, che sia per la, appunto, per gli esempi di relazioni altre, come per la difesa dei territori, che sono quindi la terra e l'acqua, che sono poi le risorse di tutti e tutte. Il certo. Messico, tra l'altro, porta tutto questo suo arricchimento in un grande percorso di autonomia e autodeterminazione, insomma, una Marichui che arriva a così, insomma, rappresentare un percorso così forte è molto emblematico, direi, sì. No? Sì, sicuramente. Vedremo poi che si dirà e che cosa metteremo insieme anche come pensieri a marzo con la chiamata delle donne del Consiglio indigena in Chiapas. Vedremo. Però, insomma, già sapere che si muove tanto è molto bello. È importante. Tanto, Francesca, non ti tengo oltre al telefono, ti ringrazio moltissimo. E grazie a te, Marta. Ci vedremo all'iniziativa. Io ringrazio anche i compagni e le compagne del Nodo Solidale, insomma, che tirano fuori veramente sempre delle belle cose, lo dico così, illustrandomi anche un po'. E ci sentiamo presto, ci vediamo all'iniziativa. Grazie ancora. Bene, ciao Marta. Ciao. Ciao.